Allora, buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, nuova puntata di Entropia Massima. La dedichiamo al ciclo delle trasmissioni, al ciclo delle lotte territoriali per l'ambiente, per la salute, e oggi parleremo della Valle del Sacco. Infatti Ah, scusa, abbiamo. forse non ripeto perché credo che non si sia sentito. Buon ascolto, parleremo della Valle del Sacco questa sera a Entropia Massima e adesso sentiremo anche una corrispondenza in diretta. Buonasera anche da questa voce. Allora abbiamo in diretta Alberto No, della. non va. Allora, c'è qualche problema con il microfono? Prova l'altro. Buonasera, buonasera. Sì. Ok, ci Ecco siamo, qui, ci scusate siamo, scusate l'inconveniente. per l'inconveniente. Niente, dicevamo semplicemente che diamo il benvenuto ad Alberto della Rete per la tutela della Valle del Sacco. Quindi, ne... Dunque, parliamo della rete per la tutela della Valle del Sacco. Che riguarda una zona del Lazio abbastanza estesa lungo la direttrice della ferrovia Roma-Cassino, dell'autostrada Roma-Napoli, e ci sono vari centri abbastanza importanti, forse il più noto, il più importante è Colleferro, nato negli anni Alberto, eccoci, sei? Sì, 30, cittadina mi sento fuori diretta, industriale. adesso ti Adesso riprendiamo. abbiamo ripristinato il collegamento. Pronto? Pronto? Sì, sei in linea. Salve. Allora, adesso passo la parola a Davide per le prime domande. Allora, Alberto, buonasera Sì. innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Diciamo, io ti Scusate. chiederei innanzitutto di farci una introduzione, diciamo, di parlarci un po' di questa rete che voi portate avanti e insomma, di come vi siete organizzati, di qual è l'oggetto delle vostre mobilitazioni. Ci sei? Ci sono. Oh, meno male. Scusate, tutti e tutte. Per questi inconvenienti tecnici, veniamo a noi. Ti dicevo, Alberto, di farci, se ti è possibile, una introduzione, cioè una spiegazione insomma, della vostra rete, di come funziona, di come siete organizzati e quali sono i temi principali della vostra, lotta. Sì, allora noi praticamente siamo nati circa un paio di anni fa, prendendo fatto che ogni qualvolta muovevamo sul territorio per le vertenze ambientali contro la guerra e quant'altro, singolarmente nei vari comuni, diciamo non si riuscivano a raggiungere dei risultati. Quindi abbiamo cercato di fare questa forma di rete di contatti tra i comuni della Valle del Sacco come filo conduttore proprio il fiume Sacco. Poi che cosa è capitato? È capitato che sono venute agli onori della cronaca tutte le vicende della valle e quindi ci siamo trovati forse in qualche modo avvantaggiati perché avevamo proprio questa rete. Tra l'altro provenivamo anche dalla situazione, dal coordinamento contro la guerra a Colleferro perché ci sono industrie di armi. Quindi abbiamo agganciato anche le testate nazionali a E quindi livello riguarda nazionale. anche altri paesi intorno, diciamo, più o meno qual è la zona di interesse del... Allora, il fiume Sacco si snoda però se ci sono molti comuni. Al momento abbiamo attivi tre nodi, abbiamo fatto diciamo, dei nodi relativi ai comuni, dove sono dei gruppi auto-organizzati che fanno riferimento alla parte centrale, quindi Colleferro, Anagni e Ferentino. Sono i Ok. comuni fondamentali che poi si sono trovati a combattere diverse situazioni, diverse emergenze e hanno funzionato in qualche situazione, no, però in altre hanno dato un gran supporto, insomma. Va bene, parliamo allora subito innanzitutto delle ultime notizie, quella di 2 giorni fa che riguarda il processo sugli inceneritori a Colleferro. E abbiamo appreso che la rete si è costituita parte civile. Per permettere che E qui? Sì? Significa nei tempi addietro qualche cosa. Non ti sento bene, Alberto, perdonami. Dimmi. Sì? Sì, dicevo appunto questo. Questo processo che, in cui vi siete costituiti come parte civile, no? Ci costituiremo, sì. Ah, vi dovete costituire, ok. Quindi sostanzialmente quando è che diciamo si aprirà il processo? Allora, l'udienza preliminare per la costituzione parte civile c'è il 13 di gennaio alle ore 11 al Tribunale di Velletri, e va a riguardare i fatti che sono venuti a galla nel marzo del 2009, quando negli inceneritori di Colleferro veniva bruciato materiale non conforme, quindi non CDR, non combustibile derivato da rifiuti, ma qualsiasi tipo di materiale, questo proveniente da molte regioni d'Italia. Okay. Quindi atti criminosi proprio, bruciavano proprio di tutto, anche amianto. Noi ci costituiamo parte civile come per gli altri processi su Colleferro e sulla Valle del Sacco, e ci attendiamo che i responsabili vengano puniti severamente, insomma. Quindi diciamo il processo dovrebbe poi trovare delle responsabilità tra chi gestisce l'inceneritore, quindi immagino l'amministrazione locale oppure non so, i tecnici dell'impianto. Allora, c'erano tecnici degli impianti e più la società che gestiva il software per il controllo delle emissioni, più intermediari, più conferitori di CDR, insomma c'è un bel mix. Sono 26 imputati, allora vennero arrestate 13 persone. Ok. Senti, rispetto alla vostra esperienza, avete già fatto, insomma, avete già partecipato a processi? Allora, eccoci di nuovo in diretta con Alberto. Abbiamo un po' di problemi con il collegamento telefonico, chiediamo... Con le tecnologie. Sì, vedi che è sempre lì il problema. Allora, dicevi Alberto praticamente di questo processo, ecco, la domanda era se la rete si è già sperimentata con partecipazioni a processi di questo genere e quali effetti ha avuto in passato, se quindi lo ritenete una buona azione di lotta. Ma sicuramente stare dentro un processo ti fa comprendere veramente tutti i meccanismi per cui si sono compiuti gli atti criminali. E certo. Inoltre, poi in una situazione come la nostra, come quella di Colleferro, della Valle del Sacco, dove non c'è una grande reattività delle persone, andiamo a rappresentare gli interessi, la tutela agli interessi dei cittadini. Noi abbiamo sperimentato con il processo, quello sull'inquinamento della Valle del Sacco, stiamo dentro, sappiamo tante di quelle cose che certo. Sicuramente non si vengono a sapere e servono anche per le azioni successive, per i comportamenti successivi. Secondo me quella delle costituzioni parte civile, degli atti giuridici, deve essere affrontata assolutamente. Sì, e invece parliamo per esempio della situazione a Ceccano, no? Che insomma, il 5 gennaio c'è stata questa notizia che sì. È stata diffusa sulla nuovamente, poi non era neanche la prima volta che si trovava beta HCH sugli animali, no? E non sarà nemmeno l'ultima, perché il beta HCH, nonostante dicano che si siano chiusi i rubinetti, i cosiddetti rubinetti dei veleni, con lo stoccaggio definitivo dei siti di contaminazione sempre di Colleferro, e il beta HCH si deposita nel sedimento del fiume e quindi viene trasportato a valle. Quello che c'era magari prima su Colleferro scende e migra verso gli altri paesi, adesso si tratta di Ceccano, cioè i 6-7 mila capi di bovini che vennero abbattuti nel 2005 quando si venne a sapere di questa cosa, adesso si stanno scendendo a valle, quindi i controlli vanno a determinare che i bovini sono contaminati da beta HCH e quindi è necessario abbatterli. È probabile che più si va avanti, poi magari scenderà ancora più giù. Tra l'altro il sito di interesse nazionale è stato allungato fino a Falvaterra, quindi per i primi erano circa 20 chilometri, adesso ce ne sono altri 30-40, quindi sono diventati 60 chilometri di sito di interesse nazionale. Cioè è andata degradando maggiormente la situazione. E senti, chi sono i soggetti che praticano questi accertamenti sanitari? Ma c'è un ufficio commissariale, praticamente un ufficio commissariale che è l'allora commissario era Marrazzo e il subcommissario è l'avvocato di Palma nominato dal Ministero. Sono loro che vanno a controllare e a verificare quello che sta avvenendo, oltre a mettere in pratica delle azioni di bonifica. Quali possono essere le conseguenze per le persone che vivono nell'area? Questa è una bella domanda, perché è stata attivata un'indagine epidemiologica sempre all'interno di questo sito di interesse nazionale, diciamo delle pratiche da osservare. Nella 2009 è stato reso pubblico e il 55% degli esaminati a campione avevano nel sangue questa sostanza, che è il beta-esaclorociclesano, un derivato del DDT che veniva prodotto a Colleferro. Quindi i fusti tossici interrati che erano all'interno del comprensorio industriale avevano fatto migrare nel fiume questa sostanza, che era andata a finire nel ciclo alimentare, quindi in bioaccumulazione attraverso le verdure, il latte e tutto quanto è entrato nel sangue delle persone. Quindi il 55%, insomma, una grande percentuale. Poi sono state fatte ad esempio hanno detto che oltre il chilometro dalle sponde del fiume va degradando questa sostanza. Noi, siccome non crediamo, preferiamo sempre andare più a fondo di questa cosa, anche io personalmente ho fatto l'analisi e vivo all'interno di Colleferro, quindi non ho acquisito o ho acquisito prodotti agricoli della valle quando ero piccolo, insomma, quando ero bambino. E risulto contaminato anche io. quindi comunque la contaminazione riguarda i capi di allevamento, soprattutto i capi di allevamento, ma la contaminazione è migrata attraverso il ciclo alimentare nelle persone. Cioè i campioni esaminati sono gli esseri umani. Ok, sì, ma dico nella catena alimentare, insomma, diciamo, per poter dare anche delle indicazioni, sì, a chi vive nell'area, no? Sì. Quali possono essere le precauzioni da tenere? Ma le precauzioni da tenere, noi ci siamo consultati anche con biologi e tutto quanto. Le precauzioni da tenere, dato che ho fatto analisi anche io, risulto contaminato, e quindi tra l'altro stiamo fungendo da cavie umane a livello internazionale, perché non c'è letteratura scientifica per cui si sa che cosa può provocare a lungo andare nel tempo questa sostanza nel sangue. Sono gli antiossidanti, cioè bisogna stare attenti all'alimentazione, bisogna stare attenti ai prodotti che magari provengono da determinate distanze dal fiume Sacco. Bisogna fare questo tipo di attenzione aspettando che qualcuno si decida a bonificare realmente, interamente gli argini. Questo è quanto si può fare, non è che si può fare, è una sostanza che si deposita nei tessuti adiposi, quindi nei grassi, e non può essere espulsa. Tra l'altro negli uomini non può essere espulsa, nelle donne l'unica indicazione che è stata data è che si può espellere solamente attraverso il latte materno, quindi allattando i figli. Ok, allora stiamo bene, insomma, stiamo messi bene. Ma infatti non siamo sconcertati su questa cosa. Va bene, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo a parlare di Valle del Sacco. Allora, siamo di nuovo in diretta. Alberto, ci sei sempre? Ci sono. Ecco qui, perfetto. Ti facciamo ancora una domanda prima di lasciarti. Sappiamo che hai anche da fare delle assemblee. A Frosinone e Ceccano, un'altra notizia sempre recentissima, in effetti in quell'area ci sono tante problematiche. Sì. Questa riguarda quella delle polveri sottili. Sì. Che è stata diffusa 4 giorni fa. Sì, sì. Dal TGR. Parliamo anche di questo. Questo è un altro, uno dei, teniamo conto che lo scorso anno, questi sono, abbiamo le centraline sia a Colleferro, ad Anagni e a Frosinone, le centraline di rilevamento delle PM10, e a livello regionale Frosinone risulta sempre essere la prima in classifica, chiamiamola, la maglia nera. Colleferro è la seconda, Anagni la quarta, quindi abbiamo 3 comuni tra le prime 4 per polveri sottili nella Valle del Sacco. Frosinone praticamente ha mantenuto la sua pole position per quanto riguarda queste polveri sottili. Credo che stiamo analizzando, noi abbiamo fatto un osservatorio estrapolando i dati dell'Arpalazio e graficandoli, e ci siamo accorti che molto probabilmente dipende dalla conformazione geografica, oltre che naturalmente alle fonti di emissione che ci possono essere. Tra l'altro su Colleferro, ad esempio, diciamo che ci sono diverse fonti di emissioni, tra cui anche i talcementi, gli inceneritori. I talcementi ha spento un forno, gli inceneritori sono sotto controllo, quindi si sono abbassate queste emissioni. Però è entrata in funzione la centralina su Ceccano, che ha superato Colleferro solamente negli ultimi 3 mesi dell'anno. Cioè, è un assurdo questo. Se non si prendono i provvedimenti, noi chiediamo allora la moratoria di qualsiasi impianto industriale che potesse mettere in atmosfera. Se non si prendono seri provvedimenti, tra l'altro l'Italia è stata messa anche in mora per questa cosa qui delle polveri sottili, è una cosa che comporta, sappiamo tutti quanti, comporta dei gravi danni alla salute. Colleferro ha, ad esempio, alle asme bronchiali infantili superiori del 200-300% rispetto alla media regionale. Quindi diciamo la situazione in tutta l'area è veramente preoccupante, e il lavoro che voi fate è fondamentale. Le persone vi stanno dietro nelle vostre mobilitazioni? Ma allora, dietro, certo, non partecipano come come noi, no, attivisti, però ci seguono, e stiamo vedendo che c'è sempre più, acquistiamo sempre più credibilità, perché parliamo praticamente con tutti, anche con le istituzioni, spingiamo le istituzioni a prendere provvedimenti, facciamo continuamente esposti e denunce, perché l'arma che abbiamo in mano è questa qui. E le persone seguono, si sta creando, certo che da un territorio a bassa reattività nostro è complicato poi passare a una fase di mobilitazione generale, però in alcuni casi, ad esempio come Anagni o Ferentino, dove ad Anagni ad esempio abbiamo in qualche modo bloccato la Marangoni per il car flap, volevano bruciare i residui della rottamazione delle automobili, e lì c'è stata una grande mobilitazione popolare con 3.300 firme raccolte in poco tempo. A Ferentino Frosinone abbiamo partecipato alla mobilitazione per bloccare l'aeroporto, un eventuale aeroporto, l'assurdo poi, no? Un eventuale aeroporto a Frosinone. Certo. La stupidità non ha limiti, insomma. È fondamentale il lavoro che fate, e quindi non possiamo che incoraggiarvi, e speriamo di avervi nuovamente con noi, e nel frattempo ti ringraziamo sia dell'intervento che di tutto quello che fate come rete per la tutela della Valle del Sacco. Grazie a voi e buona serata. In bocca al lupo. A presto, Alberto. E allora 06 49 17 50 per intervenire. Parlando della Valle del Sacco, quest'oggi abbiamo sentito già un intervento di una persona della rete. Ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM, riprendiamo la trasmissione Entropia Massima per parlare di sito che, di notizie, di cronaca diciamo della zona, che per quanto riguarda la situazione ambientale ospita articoli della rete Uvasa, quindi la rete tutela della Valle del Sacco, e quindi da questo punto di vista è utile allo sviluppo della conoscenza e anche delle lotte. Si chiama Ecco la notizia quotidiana.it, tutto attaccato. Dunque, sul sito viene l'ultima notizia è quella della costituzione di parte civile della rete al processo appunto che si aprirà praticamente la prossima settimana, no, questa settimana, scusate, il 13, e di questo ha parlato già all'inizio il compagno che era intervenuto. Noi approfondiamo, cioè ritorniamo minimamente sul discorso di che cosa era successo qualche tempo fa, l'arresto di 13 persone, il coinvolgimento di 26 imputati. Stiamo parlando degli impianti di riprocessamento dei rifiuti, ovvero gli impianti di incenerimento di Colleferro, che provoca danni alla salute delle persone. Le analisi del materiale prodotto, il combustibile derivato da rifiuti, il cosiddetto CDR, appunto, ha dimostrato che in atmosfera sono state immesse delle sostanze velenose, ma sono state fatte anche gravi irregolarità, perché c'è chi ci ha guadagnato sopra, chi ci ha speculato sopra con falsificazioni delle analisi di questo combustibile. È stato manomesso anche il sistema informatico di gestione, sono state falsificate le bolle di accompagnamento, e quindi ci sono vari interessi che si sono intrecciate. La cosa importante, positiva, è che la costituzione parte civile di un comitato come questo, un comitato di cittadini che sta conducendo una lotta determinata, seria e molto ferma contro la distruzione del territorio e della salute delle persone, e appunto essere riconosciuto come parte civile darà la possibilità di ascoltare appunto anche questo comitato nel corso di questo processo. Lo seguiremo sicuramente. Ripetiamo, comincia, scusate, il 13 gennaio, e potrebbero costituire parte civile anche i comuni limitrofi. Infatti, la rete per la tutela della Valle del Sacco fa questo invito proprio per accrescere la tutela della cittadinanza e dell'ambiente, e anche, se vogliamo, per far schierare le amministrazioni, no? Perché chi è connivente o non si interessa a quella che è la salute dei cittadini, evidentemente non risponderà a questo tipo di appello. Altre cose di cui si è occupato il comitato, la rete, scusate, è la questione delle discariche, dei rifiuti. Io da questo altro articolo, sempre sullo stesso sito web, volevo prendere alcune frasi che fanno chiarezza su un aspetto tecnologico, che si ripropone anche in altre situazioni, e a proposito della discarica di Colle Fagiolara, che dovrebbe essere chiusa, così hanno detto i politici locali, ma il comitato è scettico perché se ne parla appunto da anni di questa chiusura, mentre non è stata ancora realizzata. E c'è in più un'autorizzazione che sta per essere data a un impianto di trattamento meccanico biologico, il cosiddetto TMB. Era questa la cosa su cui volevo richiamare la vostra attenzione, perché si tratta di un impianto che potrebbe sembrare come un intervento favorevole per il trattamento dei rifiuti, perché in effetti è un trattamento di modifica del rifiuto tal quale, così come si definisce, cioè quello che esce dalla che si trova nei cassonetti dell'immondizia, no? E la rete per la tutela della Valle del Sacco si oppone invece a questa autorizzazione. Perché? Il motivo è che diventa funzionale alla filiera degli inceneritori. E in pratica la rete Uvasa dice che non è ostile in linea di principio a questi impianti, ma a questo progetto sì, perché è non solo in contrapposizione alle direttive europee, ma assolutamente non funzionale al recupero dei materiali e utile invece solo alla preselezione del CDR, cioè il combustibile derivato da rifiuti da inviare agli inceneritori, il CDR di cui si è parlato e si parlerà nelle aule di tribunale, appunto, per il processo che si apre giovedì. Quindi è bene anche orientarsi nelle sigle che identificano processi tecnologici o tipo di impianti, perché ecco un tipo di processo che teoricamente potrebbe essere positivo se inserito in una determinata filiera, utilizzato come in questo caso il TMB per essere rifornito da una discarica che quindi non verrebbe chiusa ma continuerebbe a funzionare, e poi finalizzato a che cosa? A produrre questo materiale per i famigerati inceneritori. È una cosa che abbiamo già visto altre volte, si utilizzano pretesti quali quello della possibilità di ricavare energia da rifiuti per fare altro. Allora la rete si è chiesta in maniera molto razionale: vogliamo fare un'analisi dell'energia realmente prodotta dai CDR? Vogliamo sommarci l'energia per il trasporto, l'energia per il funzionamento degli inceneritori stessi? Vediamo se questo bilancio energetico è veramente inattivo. Questa è la domanda da farsi, perché altrimenti, se non è inattivo, va da sé che ci sono ben altri interessi dietro la costruzione. Cosa significa inattivo? Significa che tu metti 100 di energia per far funzionare un determinato impianto e ne ricavi perlomeno 110, 105. Se invece metti 100 e ne ricavi di meno, c'hai un risultato energetico passivo, quindi un assurdo dal punto di vista della produzione di energia. E quindi ancora una volta si tratta di uno specchietto per le allodole, o spesso anche, come abbiamo sentito dal compagno che è intervenuto, occasioni per campagne elettorali o insomma di vari politici che fanno dichiarazioni ma poi in realtà nei fatti sono assenti. Invece sembra proprio, da quello che ci ha raccontato, che le persone siano attirate, siano insomma favorevoli alle forme di lotta che passano attraverso la Costituzione come parte civile all'interno dei processi. Ecco, questa sembra una cosa che suscita un interesse da parte di chi protesta molto concreto, al di là poi di tante dichiarazioni che possono fare i vari amministratori, sulle quali invece c'è piuttosto un bel po' di scetticismo, e ha ragione. E allora, se non ci sono telefonate, vogliamo ricordare che nei mesi scorsi nella Valle del Salto si è parlato anche della centrale Turbogas, e non anche in questo caso sia i cittadini che le istituzioni sono in un rapporto, diciamo, non univoco, perché appunto alcune amministrazioni sono più sensibili, altre meno, vengono coinvolti anche autorità europee, ma insomma l'obiettivo del centrale Turbogas viene presentato come un positivo, perché incrementerebbe del 1150% la potenza elettrica. Quindi uno potrebbe dire: accidenti, quindi veramente tanta produzione, ma per chi? Ecco, se uno guarda la situazione del consumo, si tratta, consumo di energia elettrica, di un panorama che da diversi anni è abbastanza stabile, o comunque con un piccolo incremento. Ora tenete conto che 1150 per cento in più significa un potenziamento di 10 volte. Come sicuramente immaginate, per queste grandi centrali, per queste grandi costruzioni vengono dirottati ingenti quantità di soldi pubblici, quindi soldi dei contribuenti, in cui naturalmente ci sono i profitti delle aziende, in cui naturalmente ci stanno le probabili tangenti o regali o come li volete chiamare per amministratori, politici, eccetera, eccetera, e poi addirittura. Se l'impianto non dovesse neanche cominciare a funzionare, in ogni caso l'operazione politicamente ed economicamente ha funzionato per pochi e scelti personaggi perché loro hanno incassato un bel po' di soldi. Quindi questa operazione, tra l'altro, ha l'assurdità di volere un potenziamento assolutamente non richiesto della produzione di energia elettrica. Sì, sembra che l'unica cosa che resti davvero poi alle persone che vivono lì siano tutti i problemi di cui abbiamo parlato, insomma, di salute, mentre, insomma, il resto finisce, gli altri vantaggi riguardano i soliti noti. Quindi è qualcosa che si ripete in varie circostanze. In questa qui in particolare ci ha veramente colpito la quantità di cose che avvengono in quell'area. Sembra che ci sia un particolare accanimento sull'area per quanto riguarda rifiuti, inceneritori, polveri sottili. Siamo a livelli di inquinamento gravissimi. Teniamo conto che si concentra anche una rete di comunicazione molto intensa, molto fitta, perché in una fascia di pochi chilometri sono concentrate l'autostrada Roma-Napoli, la ferrovia Roma-Cassino, la nuova ferrovia dell'alta velocità Roma-Cassino-Napoli. E c'è poi, sì, naturalmente questo fiume che non viene usato per la navigazione, ma comunque viene usato per l'irrigazione e essendo inquinati e venendo inquinati continuamente i terreni, è evidente che sia gli animali che i frutti della terra poi finiscono nella catena alimentare e nei corpi delle persone. Quindi è una situazione altamente preoccupante dove si intrecciano evidentemente degli interessi molto forti contro cui, insomma, la politica ha dimostrato di non essere in grado, la politica politicante, di non essere in grado di opporsi o peggio, di essere collusa e corrotta. Quindi l'unica alternativa realistica è quella di una lotta dal basso, di comitati di cittadini che si uniscono appunto alla difesa della salute, a difesa del territorio, a difesa dell'ambiente, perché non c'è nessun altro che lo può fare al posto loro. E va bene, allora anche per questo lunedì siamo giunti alla fine della trasmissione. Entropia Massima ritorna come sempre lunedì prossimo alle 20:15. Parleremo dell'acqua, quindi faremo una puntata di aggiornamento sui movimenti per l'acqua e tutto quello che riguarda questo tema. Allora, arrivederci a tutti e a tutte. A risentirci. A risentirci.